Comincio così oggi, leggendo una lettera aperta che è arrivata a Wombat da un operaio dell'indotto Pignone. All'attenzione del governatore Enrico Rossi, all'attenzione del Consiglio regionale tutto, all'attenzione del sindaco Nardella, all'attenzione del Consiglio comunale tutto, all'attenzione di tutte le organizzazioni sindacali, all'attenzione degli organi di stampa, all'attenzione della cittadinanza tutta. Fatto il decreto, trovato l'inganno? Il codice Ateco del Pignone è 28.29.2. Risulterebbe escluso dalle cosiddette attività essenziali. In questi giorni di incertezza si sta spargendo ulteriore disorientamento tra i lavoratori. All'interno del Pignone, i vari caporeparto e dirigenti stanno affermando con certezza che il Pignone rimarrà aperto. Se ciò dovesse avvenire, grazie alla lettera D dell'articolo 1 dell'ultimo DPCM, con il Pignone dovrebbero rimanere aperte tutte le aziende della sua filiera, indipendentemente dal loro codice Ateco. Non a caso, già da ora, il Pignone sta inviando comunicazioni a tutte le aziende dell'indotto affinché queste rimangano aperte. Stiamo parlando di decine di migliaia di operai tra Firenze e il resto della regione. Ciò ipotecherebbe seriamente la possibilità di limitare il contagio all'interno della nostra regione per le esigenze produttive e di profitto di un singolo consiglio d'amministrazione. Non possiamo e non potete permettere che ciò avvenga. Decine di migliaia di operai al lavoro rappresentano un potenziale infettivo elevato all'ennesima potenza. Le istituzioni locali e regionali devono verificare che non esistano abusi e scappatoie. Nel caso alcune delle lavorazioni del Pignone siano realmente essenziali, queste non potrebbero comunque consentire che tutte le lavorazioni e tutta la produzione rimanga inalterata. Anche all'interno della medesima azienda, nel caso questa abbia dimensioni così grandi e comprenda un indotto di tali dimensioni, è necessario ed opportuno che vengano ridotte al minimo le attività consentite. Il servizio essenziale dovrebbero esserlo per natura e senso comune. Un servizio realmente vitale per la collettività e non un grimaldello dietro al quale coprirsi, per mascherare la sete di profitto che a quel punto scavalcare il bene comune più prezioso che abbiamo, la salute pubblica e collettiva. Fiducioso che leggerete queste poche righe e che applicherete le giuste misure e che siate rigorosi almeno quanto lo siete nei parchi pubblici, spero che questa bomba dell'oliggeria venga disinnescata e ogni velleità di apertura riposta nel cassetto. Mi rivolgo a voi perché mai come oggi ogni territorio vive, all'interno della medesima emergenza sanitaria, una specificità che le istituzioni locali devono interpretare. Partendo dalle linee guida dei decreti governativi, devono saperli adattare alla peculiarità della propria comunità di riferimento. Stare a casa è un dovere, ce lo chiedono medici ed infermiere. Stare a casa a questo punto diventa anche un diritto che gli operai stanno gridando a gran voce e che spero ascolterete. Un operaio dell'indotto Pignone. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. Basta la salute, un par di scarpe nuove e poi gira tutto il mondo. Bellissimo, bellissimo. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, ascoltatrici Wombat 1906. Un inizio strepitoso qui al calduccio della Val di Susa. Vi parla Camicia, d'accanto alla stufa, col calore del legno che arde, l'odore della torta alle pere che abbiamo sfornato da poco con la qui presente Carmine, che oggi conduce con me. Ci contenderemo lo scettro, visto che abbiamo un solo microfono. E ne approfitto per fare gli auguri ai nostri contadini Antonio e Cristian della comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze. Auguri, raga! Super auguri, ma che bello, ma che sorprese! Io ho un sacco di notizie veramente positive oggi, cioè bisogna iniziare a iniettare positività, perché comunque infatti i temi che parleremo di oggi hanno bisogno come reazione ovviamente di positività. Il primo ovviamente che ho trovato due nomi bellissimi per la diretta speciale di Wombat, che ormai è la terza settimana che fa, che facciamo, dell'Aperi Wombat. Scusate, ma questa è, secondo me è bellissima, no? Dalle 7 alle 9, l'Aperi Wombat. ti piace. Ci sta. E poi un nuovo hashtag che ho deciso di coniare e di lanciare da oggi è Io resto in pijama. Come? Piaceva più Io resto nel campo. Resto nel campo per i contadini, ma visto che in questo momento noi il campo quassù non ci sa, io resto allora in pijama. Come lo, solo una persona qui come presente lo può dimostrare, lo potrebbe dimostrare. E abbiamo anche un'altra bellissima notizia, cioè le news sul mercato. Vi ricordate il mercato in Piazza Tasso, bellissimo, dove potete andare a comprare cose buone senza file chilometriche? Ebbene, una di queste è proprio il mercato in Piazza Tasso, che è stato spostato in Piazza del Carmine. Esatto, tutti i venerdì già da questa settimana troverete i nostri prodotti genuini e contadini in Piazza del Carmine dalle 15 alle 19. Solo prodotti alimentari per ora, e avvisate tutti e tutte, perché ci sono tantissime persone che sono disperate per la mancanza del nostro mercato. Quindi stiamo tornando. Io chiedo scusa a mio babbo, non posso rispondere, babbo, ti chiamo dopo. Quindi diciamo tutta la carrellata di bellissime notizie l'abbiamo dette, e insomma ogni giorno più o meno qualcuno di Wombat con la sua bella regia da casa conduce queste dirette speciali. Diciamo che ormai forse la 15, 16, 17esima abbiamo perso il conto, ma speriamo di non doverne farne più di 60, 70, 80. E vi voglio ricordare che Wombat è sempre con voi, quindi date retta ai Wombat, andate sul blog per vedere le varie dirette o i vari cambi di programmazione che possono esserci, ma ricordatevi che dalle 7 alle 9 noi qua ci siamo, tranne oggi che finiremo alle 8 e mezzo perché ci sarà un super tango, quindi pronte a ballare tra pochissimo. Che ne dici, Camicia, di partire con la prima sorpresa che abbiamo preparato per oggi? Ce l'hai pronta in regia? Si parte, tutta per voi. Cari umani, fate tacere tutti i vostri ridicoli appelli di guerra. Abbassate quegli sguardi vendicativi che mi riservate. Dissolvete l'alone di terrore con il quale circondate il mio nome. Noi, i virus, dal fondo batterico del mondo, siamo il vero continuum della vita sulla Terra. Senza di noi non avreste mai visto la luce, così come la cellula primordiale. Noi siamo i vostri antenati, allo stesso titolo delle pietre e delle alghe, e molto più delle scimmie. Siamo dovunque siete e anche dove non siete. Peggio per voi se nell'universo vedete solo quello che è a vostra immagine e somiglianza. Ma soprattutto, smettete di dire che sono io a uccidervi. Voi non state morendo a causa della mia azione sui vostri tessuti, ma della mancanza di cura dei vostri simili. Se non foste stati tanto rapaci tra voi, così come lo siete stati con tutto quello che vive su questo pianeta, avreste ancora abbastanza letti, infermieri e respiratori per sopravvivere ai danni che infliggo ai vostri polmoni. Se non aveste ammassato i vostri vecchi in delle topaie e i vostri elementi validi in conigliere di cemento armato, non sareste a questo punto. Se non aveste mutato l'intera estensione, fino a ieri ancora lustreggiante, caotica, infinitamente popolata, del mondo, o meglio dei mondi, in un immenso deserto per la monocultura dello stesso e del più, non avrei potuto lanciarmi alla conquista planetaria delle vostre gole. Se dall'inizio alla fine dell'ultimo secolo non foste diventati tutti copie ridondanti di una sola e insostenibile forma di vita, non vi preparereste a morire come mosche abbandonate nell'acqua della vostra zuccherata civiltà. Se non aveste reso i vostri luoghi così vuoti, così trasparenti, così astratti, siate certi che non mi diffonderei alla velocità di un'astronave. Io vengo a eseguire la condanna che voi stessi avete da tempo pronunciato contro voi stessi. Scusate, ma siete voi, che io sappia, ad avere inventato il nome di Antropocene. Vi siete intestati l'intero onore del disastro. Adesso si compie troppo tardi per rinunciarvi. I più onesti tra voi lo sanno bene. Io non ho altro complice che la vostra organizzazione sociale, la vostra follia della grande scala e la sua economia, il vostro fanatismo per il sistema. Solo i sistemi sono vulnerabili, il resto vive e muore. La sola cosa vulnerabile è quella che tende al controllo, alla sua estensione e al suo perfezionamento. Guardatemi bene, io sono il risvolto della morte regnante. Smettetela dunque di incolparmi, di accusarmi, di inseguirmi, di essere paralizzati da me. Tutto questo è infantile. Vi propongo un cambio di sguardo. Vi è un'intelligenza immanente alla vita. Non vi è alcun bisogno di essere un soggetto per disporre di una memoria o di una strategia. Nessun bisogno di essere sovrano per decidere. Anche i batteri e i virus possono fare il bello e il cattivo tempo. Dovreste vedere perciò in me un salvatore invece che il vostro becchino. Liberi di non credermi, ma io sono venuto a fermare la macchina della quale non trovavate più il freno di emergenza. Libere di non credermi, ma io sono venuto a fermare la macchina della quale non trovavate più il freno di emergenza. Sono venuta a sospendere il funzionamento del quale eravate ostaggio. Sono venuta a rendere manifesta l'aberrazione della normalità. Delegare la nostra alimentazione, la nostra protezione, la nostra capacità di prenderci cura del nostro regime di vita ad altri è una follia. Non c'è il tetto del deficit, la salute non ha prezzo. Vedete come faccio a sciogliere la lingua e lo spirito dei vostri governanti. Guardate come ne svelo il velo ruolo di miserabili truffatori, per di più arroganti. Vedete come d'un tratto si dichiarano non solo superflui, ma nocivi. Per loro voi non siete altro che supporti alla riproduzione del sistema. C'è ancora meno degli schiavi. Persino il plancton è trattato meglio di voi. Guardatevi però da riempirvi di rimproveri, di incriminare le loro insufficienze. Accusarli di incuria e ancora considerarli più di quanto meritano. Domandatevi piuttosto come voi avete potuto trovare così comodo farvi governare. Vantare i meriti dell'opzione cinese contro quella britannica, della soluzione imperiale legalitarista contro il metodo liberal-darwinista, significa non capire nulla dell'uno e dell'altro, dell'orrore di entrambi. Fin da Quesnay, i liberali hanno sempre guardato con invidia all'impero cinese e continuano a farlo. In realtà sono fratelli siamesi. Che l'uno vi metta al confino nel vostro interesse e l'altro per quello della società vuol dire in ogni caso vanificare la sola condotta non nichilista. Prendersi cura di sé, di chi si ama e di quel che si ama in chi non si conosce. Non lasciate che quanti vi hanno gettato nel baratro pretendono ora di farvene uscire. Non faranno che prepararvi un inferno ancora più perfezionato, una tomba sempre più profonda. Il giorno che lo potranno, faranno pattugliare i militari anche l'aldilà. Ringraziatemi piuttosto. Senza di me, per quanto tempo ancora avrebbero fatto passare per necessarie tutte queste cose indiscutibili delle quali si decreta improvvisamente la sospensione? La globalizzazione, i concorsi, il traffico aereo, i limiti al budget, le elezioni, lo spettacolo delle competizioni sportive, Disneyland, le palestre di fitness, la maggior parte dei negozi, il Parlamento, l'accasermamento scolastico, i raduni di massa, l'essenziale dei lavori d'ufficio, tutta questa socialità ubriaca che non è altro che il rovescio della solitudine angosciata delle monadi metropolitane. Tutto questo appare dunque privo di necessità, una volta che si manifesta lo stato di necessità. Ringraziatemi per la prova di verità delle prossime settimane. Andrete infine ad abitare la vostra vita senza le mille scappatoie che, bene o male,

L'umanità si pone solo quelle domande che non può non porsi. Ascoltaci streaming, il podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Da retta al Wombat, vieni, buonasera di nuovo, buonasera, qua è Camicia insieme a Carmine, avvicinati un pochino di più Carmine che adesso ti faccio un'intervista lunghissima. Allora, dove eravamo rimasti in settimana scorsa? Come chi ascolta Wombat o chi insomma legge vari articoli avrà notato, ci sono due modi insomma di un pochino di affrontare e comprendere quello che ci sta succedendo. Uno ovviamente più quantitativo, quindi andare a cercare quali sono le informazioni di ogni giorno, i numeri, le informazioni su questo virus, dove viene, che cos'è, quanto durerà, il boom che ci sarà dopo e tutte queste cose qui importantissime ovviamente. Uno è l'aspetto invece qualitativo, ovvero come diavolo stiamo passando il nostro tempo qui, come stanno rispondendo le istituzioni, come vengono a galla tutte quelle falle della struttura mentale e politico-economica di chi ci comanda, eccetera. Ovviamente analisi e critiche non sono fatte così per fare, ma servono e sono molto importanti proprio per stimolare un dibattito comunque ancora democratico e per poter portare poi delle soluzioni e delle proposte quando questo sarà finito, in modo la prossima volta da avere anche in modo più rapido e più efficace poter affrontare la cosa in modo anche insomma meno violento sotto certi aspetti. Uno di questi è proprio l'aspetto psicologico, nel senso che tutta questa movimento dei mass media, tutte queste informazioni che ci arrivano e ci bombardano ogni giorno, a maggior ragione a quest'ora quando da poco vengono dati i numeri dalla Protezione Civile, peraltro tra virgolette vi dico che siamo al terzo giorno consecutivo di diminuzione dei nuovi casi positivi, una cosa che probabilmente non leggerete domani, ma una cosa molto positiva perché finalmente forse sta cominciando a scendere la curva dei nuovi casi positivi. Erano più di 4.500 tre giorni fa, ora siamo a 3.800. Speriamo di continuare così ovviamente, e complimenti a tutte e a tutti per il lavoro, chi lo sta facendo e per chi invece resta a casa. O resta in pigiama, a proposito dell'altro tag. Tornando all'aspetto qualitativo però, ecco, è molto molto importante comprendere come possiamo passare al meglio questi momenti in cui siamo reclusi alla fine in casa nostra e anche arrivare a comprendere quindi quali sono le emozioni che ci stanno governando, anche per evitare che poi queste emozioni vengano governate da qualcun altro, portandoci poi a fare dei ragionamenti completamente sballati, tipo il mio vicino è uno stronzo, tipo sì, vogliamo i droni ovunque, tipo ma quello gli ammazzerà il cane perché lui va a giro col cane, io non posso, eccetera eccetera. Come evitare che tutto questo sfoci poi in rabbia collettiva, che tutto questo diventi poi davvero un problema sociale e più in là col tempo culturale? Abbiamo qui l'esperta nel settore Carmine tante cose, è naturopata, è naturatrice, è insegnante, educatrice, principalmente educatrice. No, non mi rubi nulla, ecco, qua si è staccato tutto, niente, educatrice non si può dire. Sì. Allora, no, più che presentare me, che sono una donna, ho rubato un termine molto interessante che mi è piaciuto tanto, che si da Mauro Scardovelli, è un giurista, musicoterapeuta che si occupa di terapie sistemiche, che ha coniato questo termine che sovranità emotiva, e mi è sembrato bellissimo. Come un attimo che Camicia mi dice una cosa? Aspetta, faccio l'introduzione per riprendere da settimana scorsa, perché abbiamo fatto un'intervista interessante sempre sulla paura a Stefano Riccesi, che aveva cominciato, volevo un attimo riprendere l'intervento di Stefano in modo poi da continuare con tutta l'analisi di oggi. Stefano ci ha parlato di come se non conosciamo il nostro modo di affrontare la realtà, non sappiamo quando stiamo reagendo in maniera funzionale o disfunzionale. Poiché sembra ovvio che in un pericolo di contagio rischiamo tutti la vita e temiamo per la propria vita, sembra anche ovvio che la paura non sia un sintomo naturale e una reazione logica dettata dall'istinto di sopravvivenza. Ma questo, diceva, basta osservare gli animali, non è mai attivo in presenza di fantasia o state di panico, pensieri incontrollate e reazioni ingovernabili. L'istinto di sopravvivenza si manifesta sempre sotto forma di lucidità, in modo da farci rendere presenti nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Molti di noi invece in questo momento stanno da un lato condividendo terribili messaggi o analisi di dubbia provenienza o stanno costruendo sulle loro emozioni commenti di quello che accade. Questo è quello che è stato definito come virus psichico, che accanto al virus fisico sta mietendo e mieterà numerose vittime, che è indotto da un lato dalla comunicazione, dall'altro dalla preesistenza nell'anima di ciascuno di noi di una paura che non viene elaborata e che quindi quando viene risvegliata, visto che non è fatta coscienza, è in grado di prendere il controllo del pensiero e dell'azione. Ed ecco che ognuno giudica gli altri, ma sempre non in relazione alla realtà, ma alla presunta realtà in sé. E ci eravamo fermati qua. Adesso invece vogliamo proprio analizzare un po' meglio questa paura e tutto il resto e di nuovo, quindi Carmine, vai libera. Mi piace tenere questo microfono tra le mie mani, ci sto prendendo gusto. Si diceva, io più che analizzare volevo portare qualche spunto veramente semplice di uso quotidiano per provare a generare, alimentare dentro di noi delle emozioni che siano il più possibile funzionali. Al di là di questo momento, ma in qualsiasi fase della nostra vita. È chiaro che in questo periodo alcune emozioni poco costruttive sono particolarmente accentuate. E, diciamo che possiamo partire dalla consapevolezza, credo universale, che se sappiamo riconoscere quali sono le emozioni che abitano in noi, che ci vivono, possiamo affrontare meglio le situazioni. E vediamo un po' di affrontare questo punto insieme. Innanzitutto vediamo quali potrebbero essere le emozioni che in questo momento con le quali potremmo confrontarci. Prendo spunto sulla base delle esperienze che stanno arrivando a me personalmente attraverso le persone che mi contattano e si rivolgono per avere qualche consulenza su rimedi che possono aiutarli a sostenere le difficoltà varie che stanno vivendo in questo periodo. Quindi ho preparato un elenco. Allora, al di là, diciamo, della noia, quel senso di un po' passivizzante che ci fa sentire che il tempo si dilata e può far sentire alternativamente inquieti, inutili o apatici o il senso dell'abbandono, ci sono due emozioni principali che stanno emergendo. Da una parte abbiamo la tristezza, dall'altra abbiamo la rabbia. La tristezza per la perdita di alcune certezze o di determinate abitudini e soprattutto per alcune situazioni relazionali, magari e sociali, soprattutto nel caso in cui ci sono molte persone che non hanno la possibilità di incontrarsi in questo momento, famiglie anche divise. E la rabbia che genera proprio un'insofferenza che spesso fa sì che si cerchi qualcosa o qualcuno a cui indirizzarla. E sono entrambe, diciamo, hanno una matrice in comune, che è quella della paura. Anche lì chi ha la paura del contagio, chi ha la paura dei propri cari, chi ha la paura dovuta a delle preoccupazioni che sono di tipo economico o lavorativo, ma di fatto è proprio la paura ancestrale del cambiamento e della morte, che possono portare ansia, angoscia e dare comunque i tipici sintomi legati appunto all'insonnia, all'astenia, quindi alla stanchezza e soprattutto alla tachicardia. Ovviamente tutte queste emozioni sono chiaramente legittime e entro certi limiti preziose e funzionali, fin tanto che non diventano però poi il timone e si possessano di noi. Vediamo un po' perché hanno, diciamo, anche una funzionalità. Intanto ci stanno dicendo che la situazione è cambiata e dobbiamo di conseguenza cambiare anche noi, stare al passo. In una fase in cui finalmente si può dare spazio all'essenziale a discapito di tutto il superfluo che ci circonda. Queste emozioni, mentre si fanno sentire, mentre si manifestano, ci avvertono anche che abbiamo tantissime energie dentro di noi, le possiamo sentire proprio grazie a questa emozione che bussa, che ci parla. E ci racconta che abbiamo tante risorse e tanta voglia di trovare anche nuovi punti di vista. Come stavo accennando, il pericolo reale è quando prendono il possesso, prendono proprio la guida dei nostri pensieri, dei nostri comportamenti e delle scelte quotidiane, e soprattutto di quello anche che diciamo, pensiamo e come ce la portiamo con gli altri. Possiamo dire che affinché queste emozioni non intossichino il nostro organismo e le nostre relazioni, tra l'altro, se avrò il tempo, a questo proposito vorrei anche poter parlare di come la paura affetta il corpo fisico, vediamo se ce la facciamo. Dicevo appunto, queste emozioni che intossicano il nostro organismo abbassano effettivamente le difese immunitarie e la capacità di ragionamento lucido. Quindi è importante, come primo passettino, banale però mi va di sottolinearlo, è proprio renderci conto che esistono queste emozioni e che ci stanno attraversando. Quindi accorgerci semplicemente di quello che stiamo provando e tentando anche di dargli un nome, un volto, un'immagine, un'etichetta, quindi riconoscerle, sapere dialogarli, invitarle a cena, invitarle a pranzo. E poi nel momento, in questo dialogo, mi piace l'immagine della tavola, dell'invito a tavola delle emozioni, accorgerci che stanno sprigionando una grande intensa energia che si esprime proprio attraverso quello che stiamo provando in quel momento, che ovviamente non emerge a caso, ma è proprio in virtù di una concatenazione di credenze e pensieri che spesso non sono nostri, ma sono indotti. Ci sono stati proprio inculcati o nell'infanzia o nel corso della nostra vita. Quindi dare proprio una rassettata, una pulita a queste credenze che sono spesso infondate, limitate, limitanti e disfunzionali. E servono di fatto a reggere soltanto dei sistemi che sono di controllo, anziché la vita e la sua evoluzione individuale e la sua evoluzione collettiva. Quindi una grande occasione di emancipazione, di crescita personale, di libertà. E se non sono questi discorsi politici, poi un terzo passo, che forse è il più complicato, che può avvenire soltanto dopo aver riconosciuto ciò che stiamo provando e anche l'energia che sgorga da queste emozioni, è uno strumento a nostra disposizione, semplice, con cui la nostra coscienza, uso questo termine per restare diciamo nel mondo occidentale, ma possiamo dargliene tanti altri, quindi la nostra conoscenza può proprio collaborare per governarle. Quindi qual è questo terzo passettino? È proprio la non identificazione con quello che stiamo provando. Che Jung, sempre per rimanere nel mondo occidentale, chiama differenziazione. Quindi possiamo fare perno su di lei, sulla nostra coscienza, proprio per renderci conto che non siamo né la nostra rabbia, né la nostra disperazione, né la nostra angoscia o la nostra tristezza. Noi siamo la nostra coscienza. Quando la coscienza se ne accorge, si rende conto, può ascoltare, osservare, sentire e respirare all'interno, avendo proprio il potere reale di parlare con le emozioni, consolarle, trasformarle. Ciò che la coscienza non fa, di certo, è agire autonomamente e lasciarsi governare da queste sensazioni. Quando questo accade vuol dire che la coscienza non c'è e quindi non c'è la libertà personale, non c'è il libero arbitrio, ma si è dentro una vera e propria schiavitù e una prigionia di se stessi, motivo per cui credo fermamente che sia davvero necessario parlare di ciò, soprattutto nei nostri ambienti. Una postilla, ho ancora un po' di tempo, Camicia, dalla regia mi dicono insomma, vabbè, me ne sbatto. Quindi allora diamo spazio alla nostra coscienza di emergere con la consapevolezza che le emozioni che ci attraversano non sono la realtà, e soprattutto non sono me. Faccio un esempio, la fobia dei ragni. Allora, questa stessa paura, appunto, del ragno, non esiste in realtà fuori di me. Esiste solo, forse, l'oggetto della mia paura, cioè il ragno. Dentro di me esistono soltanto delle credenze, come si diceva prima, delle memorie che fanno sì che io associ il ragno a un pericolo e quindi ne abbia paura. Quindi se lo intravedo con la coda dell'occhio e faccio un salto per allontanarmi, è la mia intelligenza corporea che mi sta guidando, quindi è funzionale. Se lo vedo da lontano e a distanza e mi comincio a impaurirmi, a arrabbiarmi e decido di uccidere tutti i ragni del mondo, ho evidentemente perso una grande occasione per utilizzare la mia coscienza e mi sono miserevolmente identificata con le mie limitate credenze. E quindi, preso atto che le emozioni che ci attraversano non sono noi, quindi non sono la nostra coscienza, e che la nostra coscienza è in grado di riconoscerle, dialogarci e trasformare energia, possiamo provare a dirigere l'energia emotiva verso emozioni che abbiano una funzionalità e che abbiano delle attività più costruttive. E forse lo vediamo dopo, perché dell'energia mi fanno segni. L'unico segno è... No, è molto... tutto stra-interessante. Ti farei presentare un brano, così mandiamo un po' di musica, lasciamo sedimentare un po' queste informazioni e poi si va invece più sullo specifico con qualche domanda che ho. Allora, vi voglio presentare questo brano che ho portato, delle Riciclette, che potete trovare su YouTube e Facebook. È un gruppo di splendide donne fresche, luminose, tutte mediterranee, che vivono in Piemonte. E loro sono completamente autodidatte, sperimentano e soprattutto riciclano musica dalle varie tradizioni. Ecco a voi le Riciclette con questo brano riarrangiato da Musica Nova, Quando Sole Doce, come insegna Nina. Grandi! Senti la voce della chiara fontana. Come una preghiera che sta qua fresca, che te benedice fino a quando è sera, fatela bastare. Yeah. qui con la stufa che continua a bruciare di tutto. Bellissima la canzone delle biciclette, grazie per questa bellissima scelta, Carmine. Grazie a loro che hanno riarrangiato questi brani. Eravamo rimasti, allora, la prima domanda che mi viene da farti è: quando si attiva però questa paura e che effetti ha sul nostro organismo? Allora, la risposta è lunga, io vabbè, proverò a sintetizzarla. Allora, intanto la paura è una delle emozioni più antiche perché è propriamente legata alla nostra sopravvivenza. Quindi di fronte a una minaccia l'organismo mette atto una serie di reazioni per prepararsi alla difesa o alla fuga. E, se però questo stimolo stressogeno si presenta costantemente, la soglia della tollerabilità si eleva e ci porta verso l'assuefazione. E ci troviamo quindi a produrre tantissima adrenalina e cortisolo, che sono ormoni prodotti dalle ghiandole surrenali che si trovano sopra i nostri reni. E in situazioni di emergenza e di pericolo, l'ipotalamo del cervello manda i segnali al surrene dicendogli proprio di produrre questi ormoni, e quando sono attivi a livello fisico possiamo iniziare proprio a percepire il battito del cuore. Arriva più sangue ai tessuti e ci sembra di sentire improvvisamente più energia. A livello sensoriale ci sono dei veri e propri cambiamenti. La vista viene potenziata, mentre l'udito si riduce. E questo è proprio, diciamo, fatto apposta per permetterci di estraniarci dall'esterno e rimanere concentrati sul problema che abbiamo da risolvere e portare lì tutta la nostra attenzione, il nostro focus. Questi ormoni, appunto adrenalina e cortisolo, se sono prodotti in eccesso e costantemente portano uno stress cronico e al manifestarsi di molti sintomi che sono, insomma, quelli che citavo prima legati alla paura. Inoltre ci si può assuefare e diventarne dipendenti, proprio come delle droghe, quindi schiavi. In balia e lontani dal nostro centro, che non sa più pensare, non sa più scegliere e sentire autonomamente, e quindi siamo più inclini alla possibilità di essere controllati e manipolati. E attenzione, perché la paura può renderci sia passivi, quindi completamente remissivi anche nei confronti dell'autorità, o al contrario super attivi e assertivi, alimentando invece la collera verso se stessi o verso l'esterno, comunque sempre una non scelta lucida, e siamo molto lontani da noi. E questo un po' ci rimanda alla situazione che stiamo vivendo ora. Pensiamo a un anziano che magari già debilitato delle sue patologie accende il notiziario e sente che c'è questo virus letale che colpisce prevalentemente la sua categoria. Poi per caso magari gli fanno pure un tampone e gli dicono che è positivo, diciamo che si riducono di molto le possibilità di superare la malattia. E a livello quindi insomma un po' credo anche mi va di denunciare che la paura aizzata dai media sta mietendo vittime, così come questo virus. E per fortuna abbiamo un equipaggiamento che ci salva da tutto questo. E mi interrompono. Un equipaggiamento, no, perché proprio lì infatti volevo proprio arrivare a capire. Noi abbiamo tutti gli strumenti con cui, insomma, riuscire ad evitare che succeda tutto questo, e quindi qual è questo equipaggiamento e che consigli vuoi dare su come usare, insomma, aver capito le tante energie che comunque sentiamo dentro, che a volte escono sotto forma di rabbia, tristezza, eccetera, ma dimostrano che siamo pieni di energie. Intanto quello di utilizzare ormoni antagonisti a adrenalina e cortisolo, come l'ANP, il polipeptide netriuretico atriale, che sono invece è un ormone che viene prodotto quando siamo in uno stato di armonia, di fiducia, aperti e gioiosi, e fa proprio parte del nostro corredo di nascita, e possiamo attivarlo quando e come vogliamo. Non è troppo difficile, è un po' complicato spiegarlo in radio, ma è semplicissimo da eseguire. Intanto occorre fermarsi, stare nel momento presente, scollegare per quanto possibile la mente, per far sì che entri in azione il sistema parasimpatico, che al contrario della fuga lui ci permette proprio di riportarci alla calma, allo stato, appunto, che poi ci riporterà allo stato del sonno, dove entra in gioco la ceticolina, che è un altro ormone, E fatto questo possiamo connetterci col nostro lobo frontale e attraverso delle tecniche che possono essere o di osservazione e di ascolto delle sensazioni, che lavorano principalmente con il respiro libero non controllato e con lo scanner del corpo, depurando tra l'altro le tossine, e magari un giorno, insomma, ci sarà il tempo di elencare tutti gli straordinari benefici di queste tecniche, oppure attraverso altre più di visualizzazione, quindi cercando di mantenere un'immagine più possibilmente bella o di un ricordo positivo. Appunto, tramite l'ipotalamo vengono secreti altri ormoni, come quelli che vi ho elencato, tra cui anche la serotonina, che ci fa dare proprio una sensazione di benessere, rigenerare le ossa, le cellule del fegato, e viene secreta anche l'ossitocina, che promuove proprio il senso di fiducia, ci rende meno diffidenti nei confronti degli altri e aiuta proprio a favorire legami interpersonali. Sono dei metodi molto validi, molto semplici, che aiutano ad attivare i neurotrasmettitori del benessere per essere più in salute, longevi, e quindi sono delle tecniche di, diciamo, propriocezione, per non dire meditazione, che è una parola ogni tanto spaventa, ma anche l'utilizzo della voce libera, la danza istintiva, la musica. Io per esempio suono tutti gli strumenti del mondo, anche se non ne so suonare nessuno, non ho mai studiato le regole della musica, ma mi improvviso ugualmente. E, insomma, siamo dotati di libera scelta, e perciò sta a noi optare se andare verso la paura o verso l'amore. E secondo me questa situazione ci dà la possibilità. Non dimentichiamo poi tutti i processi creativi, l'immaginazione, la fantasia, che sono degli alleati preziosissimi, che dovremo coltivare sempre di più nella nostra vita, a dispetto dell'intento produttivista. Insomma, utilizziamo proprio quell'energia per fare delle cose belle, che siano utili o anche inutili, non importa. Proprio la bellezza di poter sentire queste emozioni, che sono rafforzanti rispetto a tutti gli accadimenti che sono attorno a noi. Non vuol dire essere passivi, non vuol dire non rendersi conto del problema, né minimizzarlo, tantomeno negarlo, ma significa, anzi, secondo me, proprio guardarlo ben bene negli occhi e sentire e sapere che tutte queste ansie, angosce, paure, rabbie non sono funzionali per affrontare al meglio proprio i momenti di crisi, i momenti difficili, mentre la lucidità, l'entusiasmo, come dicevo, la creatività, la gentilezza, soprattutto con noi stessi, ci danno la possibilità di porci nelle migliori disposizioni d'animo per affrontare lucidamente tutto il peggio che può arrivarci. E quindi, mai come in questo momento, possiamo davvero cogliere l'occasione per esercitare le capacità di questa sovranità interiore che citavo all'inizio, e insomma, basta questo. Avrei tante altre cose da dire, ma il tempo stringe. No, sono cose bellissime. Comunque abbiamo altri 40 minuti, collegamento permettendo. Io qua sto osservando la barrettina broadcasting verde lì sotto, quando diventa gialla vuol dire che bisogna togliere il programma e ripartire. Ora. Assolutamente, però volevo un attimo un po' parlare. Guarda, per me finisco di lavare i piatti, faccio un'altra torta. A proposito appunto di queste cose, no? Si sta vedendo tanto la gente come si sta, le persone come si stanno sbizzarrendo nei mille modi, no? E fare il pane di qua e fare un sacco di aperi Skype o come vuole, 2000 cose. Ma alla fine tutti noi stiamo provando, o prima o dopo queste attività, un po' di questa tristezza, un po' di questa paura, no? È una cosa proprio attualissima per tutti noi. Quindi questi consigli su come rimanere centrati, in modo da capire quali derive non prendere, è molto importante. Anche la lettura è una cosa che in questo momento va proprio alla grande, no? Almeno ce l'auguriamo. Intanto voi, prima di mandare il prossimo brano, che lascio presentare a te di nuovo, visto che ci mettiamo quasi solo musica italiana al chilometro, non zero, ma quasi, tutta local. Ci vuoi dire un libro che consigli, insomma, da leggere? Allora, consiglio un libro un po' complicato, un po' difficile, ma di un carissimo amico, che è Stefano Riccesi, che è intervenuto spesso nella radio. Il libro è Veggenza, le radici spirituali della creatività. E la ragione per cui lo consiglio è e tra le tante cose e tra l'enorme ricchezza di questo libro, e che tra le tante sottolinea anche l'importanza dell'aspetto del sacro proprio all'interno delle nostre comunità, e denuncia la, diciamo, la perdita di saper comunicare col mondo invisibile e con i mondi più sottili come proprio causa anche che ha portato al, al dominio capitalista di cui siamo invasi o pervasi. Potete, credo che l'edizione sia Porto Sicuro edizione, si trova online, ma lo porteremo presso i nostri mercati, così lo potrete acquistare direttamente dal nostro banchino. Invece la musica, su cosa si balla ora? Su che si balla? Allora, porto un'altra artista nostrana, sempre mediterranea, lei è della provincia di Reggio Emilia, e si chiama Loop Luna, e ve la propongo con uno dei suoi brani meno conosciuti, che si chiama Eclissi. Grande Luana! Odiami perché non ho coraggio. Oggi ho capito che era solo un miraggio. Voci che ancora mi tengono in ostaggio. Croci che mi porterò fino alla morte, alla fine di sto viaggio. Avevo un sogno ed era solo un sogno. Ed era come Edera, quasi me ne vergogno. Copriva le finestre da cui entravano le luci. Apriva mondi ignoti, i miei teneri rifugi. Tane che distruggi quando non è più bisogno. Quando ti accorgi che la vita se ne sta andando. E non c'è più l'estate, le mezze stagioni. E manco tu, e perché non ti rincontro, manco me lo chiedo più. Odiami perché non so parlare. Ieri non ti avessi mai lasciato andare. Ceri bruciano di fronte al tuo altare. Vedi, la verità è che non saprò manco se sei reale. Come se ti conoscessi da prima che nascessi. Bambina tra i cipressi, poi regina degli eccessi. Abbinami agli oppressi, anima in catalessi. Abbindolata da promesse vane e compromessi. Una linea, poi riflessi, una rima, poi testi. Fino a capire che l'amore non si sublima in versi. Ho smesso di aspettarti, concesso pochi sguardi, ammesso che ti volteresti indietro. È tardi per spiegarti io chi sono, mi crederesti matta. Sono solo distratto, una passione troppo astratta. Ho sonno e so che voltarsi indietro ora sarebbe stupido, come aver mandato tutto in malora. Odiami perché non sono libera. Domani magari sentirai che si vocifera di mani. Te, se avesse il vuoto, tutto questo ci farà titani. Se fossi stato mio adesso ti direi rimani. Al dolore, volo lontano all'ignoto. Mi voto al tuo amore contro il vuoto. In toto, mi voto al dolore, volo lontano all'ignoto. Mi voto al tuo amore contro il vuoto. In toto, mi voto al dolore, volo lontano all'ignoto. Mi voto al moto interiore, amo il tuo livore. A modo mio domo ogni timore. Ricordami di me, tu sei la meta. Redine che mi redime quando persa tergiversa in cose effimere. Il possesso è solo il riflesso dell'amore. Ed io rimo al contrario, controllo un mero ardore. Salieva il tuo dolore, levi me agli inferi del cuore. Medito sul merito del tuo candore. Mi voto al tuo amore contro il vuoto, in toto. Mi voto al dolore, volo lontano all'ignoto. Mi voto al tuo amore contro il vuoto, in toto. Mi voto al dolore, volo lontano all'ignoto. Mi voto al tuo amore contro il vuoto, in toto. Mi voto al dolore, volo lontano all'ignoto. Mi voto al tuo amore contro il vuoto, prima dell'eclissi. Avrei dovuto dirtelo prima che partissi. Conosco delle barche che restano nel porto per paura, che le correnti le trascinano via con troppa violenza. Conosco delle barche che arrugginiscono in porto per non aver mai rischiato una vela fuori. Conosco delle barche che si dimenticano di partire, hanno paura del mare e a furia di invecchiare le onde non le hanno mai portate altrove. Il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare. Conosco delle barche talmente incatenate che hanno disimparato come liberarsi. Conosco delle barche che restano ad ondeggiare per essere veramente sicure di non capovolgersi mai. E conosco delle barche che vanno in gruppo ad affrontare il vento forte, quello che c'è al di là della paura. Conosco delle barche che si graffiano un po' sulle rotte dell'oceano, ove le porta il loro gioco. Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire una volta e ancora e ogni giorno della loro vita e che non hanno paura a volte di lanciarsi fianco a fianco in avanti, a rischio pure di affondare. Conosco delle barche che tornano in porto lacerate dappertutto, ma più coraggiose e più forti. Conosco delle barche straboccanti di sole perché hanno condiviso anni meravigliosi. Conosco delle barche che tornano sempre quando hanno navigato, fino al loro ultimo giorno. E sono pronte a spiegare le loro ali di giganti, perché hanno un cuore a misura di oceano. E ora che l'ho letto tutto, ho capito che l'ha scritto la Sele. Grandissima, grazie. Evviva, evviva, evviva. Beh, mi sento quasi... direi che è praticamente perfetto ora. Se sì, ne pa... direi che... gran pezzo di Incamiscia. Un salutone agli altri incamisciati, il cantante Simone e il super Cavalloschi Cesarin, e vai, ballatela col vostro bicchierino di vino in mano, che so che ce l'avete, tanto so, lo so. Sassi, Nespa, Mandarin. Sinceramente no! Mandarino! Te lo ripeterò! No! Mandarino! Asperino tu! Talvolta, senza semi tu, ti fai chiamare Clementino, ti fai chiamare Clementino, ti fai chiamare... Clementino! Oh, Clementino! Su di un pero. Ma tu che ti assaggiai? Tu! Eri una pera. Clementoschi, talvez un'altra. Però Clementai. Suona più fruttuoso. Più acidino. Mandarino tu. Che ci volete fare? Mi piace tantissimo questo spottino, non posso farne a meno. E se mi piace tantissimo, come posso fare? E se mi piace, dove posso andare? Ho un'altra torta stasera, Carmine. Stavo guardando i numeri. Pare che come diretta speciale si debba dare anche o no, non si deve niente, ma ho l'intenzione di dare qualche numero. 107.000. Indovinate cosa sono questi 107.000? Vediamo se ci scrivete. 1, 107.002, 107.003. Bene, ve lo dico io. Sono i denunciati dall'11 marzo. Ebbene sì, non sono i positivi, ma sono i denunciati. Sarà bella, eh? Non ve l'aspettavate. Da ieri sono 10.000 i denunciati. È bellissima questa cosa. Ieri le forze di polizia hanno controllato in applicazione delle misure di contenimento del contagio 228.550 persone e 9.949 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 87.000. Che numeri, eh? Altro numero molto interessante che non potete perdervi è 408.000, che sono i casi coronavirus nel mondo, per cui mi sono messo a fare un attimo una proiezione nel futuro e scommetto che entro la prossima domenica saremo a 1.000.000. Ahimè, ci sarà un'altra bella botta di paura quando saranno superati i casi di 1.000.000, perché insomma si sa, 1.000.000, sempre 1.000.000, come diceva Gerry Scotti. Che tristezza. Che citazione importante. Che tristezza. Però come diceva all'inizio, invece positivissima, è il terzo giorno consecutivo che scendono i nuovi positivi. Dicevamo il 21 erano 4.821 i nuovi positivi, e poi 3.900 il 22, 3.700 il 23, oggi 3.612. Quindi questo è un super super numero. Te c'ha un po' di numeri da dare? Non c'è numero da darmi? Numero di telefono. Ah, così al radio. Vai. 331 96. Io invece non ho numeri, a parte la quantità di zucchero, farina integrale e cosa c'era, e acqua che avevo messo per fare la torta. E invece ho un paio di informazioni da darvi interessantissime, e se no che stiamo qui a bere vino e basta. E noi che siamo sempre al secondo posto in Italia come totale dei casi positivi da quando è scoppiata l'epidemia. Cina rimane ancora al primo, 81.000, noi a 69.000, e Stati Uniti ci stanno raggiungendo alla velocità della luce, sono quasi a 50.000. Quindi anche qui immagino che in un paio di giorni, due o tre giorni, ci supereranno, ristabilendo le classifiche olimpiadi, dove Cina e Stati Uniti sono sempre in vetta. Manca il Canada, che qui invece vedo parecchio giù con 2.500. Questi dati in diretta, aggiornati ogni giorno a mezzanotte, sono presi da www.worldmeters.info. Potete vedere se bene l'internet va ancora, questo mi rende molto felice. Che succede qua? Ecco, ho finita la musica. Ho anche segnato due o tre link molto belli, quindi prendete appunti, vi do 10 secondi per prendere il cellulare. 5. Belli, gli Antibalas Games New Joint. Questo sì che è un tappeto come si deve. Allora, ovviamente la punta.org, che è divenuto un bellissimo portale dove le varie realtà autogestite fiorentine stanno appuntando i loro numeri e i loro volantini per chiamarli per le spese a domicilio, ci sono anche segnate le dirette Wombat e tante altre cose. Quindi tenetelo d'occhio, perché via via cose utili che riguardano il sociale a Firenze verranno pubblicate lì. Si parla di realtà autogestite. Poi vi consiglio di ascoltare l'ora e 40 di radio di Coronavirus, origini, effetti e conseguenze, perché questo sì, dal punto di vista quantitativo scientifico, è molto interessante. Sta passando anche su Wombat Radio o a Radio Onda Rossa, c'ha proprio il podcast. Un articolo invece bellissimo su Giacobbe in Italia, c'è vita nell'emergenza, perché qui ovviamente compaiono solo i disastri. L'unica cosa positiva che i media riescono a dire sono quanti sono stati i nuovi guariti, ma non si parla tanto di tutte le novità che ci sono dal punto di vista sociale. E sono tante, le organizzazioni si organizzano, ovviamente, perché il sostantivo deriva da questo, e non peraltro il mercato, Piazza Tasso, sono riusciti a spostarlo in Piazza del Carmine. Insomma, ci sono comunque tante cose interessanti da seguire in questi giorni, perché ovviamente qui nel substrato dal basso continuano a vivere. continuiamo a vivere tutti quanti, anche se cercano di cancellarci. Qui mi sa che Carmine vuole fare un appunto. No, oltre che ero molto distratta, avevo solo una cosa in testa, di ricordare che venerdì ci sarà nuovamente il mercato della comunità di resistenza contadina in Piazza del Carmine. Questo venerdì, mentre domani ascoltate Radio Contado, sempre su Wombat Radio alle 2:30 da Frittole. Mi mancate tutti, ragazze. Ciao, ciao, ciao. Un giorno tornerò anch'io a Frittole. Mi viene da piangere. E poi cos'altro mi ero segnato? Ah, mi ero segnato di rileggere il monologo del virus, che è stato quel monologo che è stato letto da Camicia e Carmine all'inizio di questa puntata. E... musiche di Niccolò Giordano, che non conosciamo. E poi vi consigliamo, se usate Facebook, di seguire la pagina L'amore amorevole di Bruno Lomele, carissimo amico, bravissimo psicoterapeuta relazionale, sta scrivendo delle cose veramente costruttive, intelligenti, sensibili e importanti, quindi seguitelo, leggetelo, insomma fate un po' di pulizia anche sui vostri social, è il momento per mettersi lì e fare pulizia. Se sapete fare una buona pulizia, il risultato alla fine è buono, potete avere una piattaforma dove vedrete apparire cose interessanti e belle. Se invece continuate a tenere sui muri le foto dei gattini, ragazze, ragazzi, ma il Facebook continuerà a far vedere soltanto le cose più inutili. Però questo era un appunto, questa sì, forse era una critica abbastanza sterile, una polemica abbastanza sterile. Ma chi se ne, io andrei con un altro po' di musica. Il mondo è come te lo metti in testa, perché niente a caso, neanche la musica, insomma, segue le nostre parole, del mitico Giovanni Truppi. Dai. Io mi chiamo Giovanni e il mio nome è un plurale, ma nonostante questo indizio che mi hanno dato mamma e papà quando sono nato, ci ho messo più di 20 anni a realizzare che siamo tantissimi qui dentro, e più lo capisco più mi rassegno allo sgomento. Io vado dal pazzologo 2 volte a settimana a bere da Gino tutti venerdì sera. Mi vedo con gli amici ma non mi diverto tanto, e qualche sera a letto un pochettino piango. Io sono una lista di cose da fare, io c'ho 30 anni e non so ancora come diventare. Io sono un cercatore che cercava un tesoro e adesso mi ritrovo senza lavoro. Io sono nato a Napoli e adesso vivo a Roma. A Roma si sta meglio che a Napoli, ma io sto meglio a Napoli. E allora questo che vuol dire? Che io sto meglio dove non sto meglio? E allora come faccio a capire quando sbaglio? E il mondo è come io me lo metto in testa. Un giorno sto nel mare, un altro nuoto in una vasca. Un giorno dormo, un giorno mi ricordo. Un giorno mi sveglio e un altro giorno sono sordo. Ma chi l'ha detto che un errore è un errore se lo sapevi che era un errore? Ma chi l'ha detto che sognare è meglio che pensare? Ma chi l'ha detto che se dai soldi ai poveri allora poi eri buono? Ma chi l'ha detto che se chiedi scusa io poi ti perdono? Io sono nato in città e voglio vivere in campagna, e quello che è nato in campagna vuole vivere in città. I cinesi si mangiano i cani, i francesi non si fanno il bidet. Quando ormai sono venuto ti guardo e penso che posso anche vivere senza di te. E la mia vita è una sceneggiatura che non ho scritto io e nemmeno la natura. Io voglio una spiaggia bianca nel cervello, pesciolini colorati e barriere di corallo. E il mondo è come io me lo metto in testa. Un giorno sto nel mare, un altro nuoto in una vasca. Un giorno dormo, un giorno mi ricordo. Un giorno mi sveglio e un altro giorno sono sordo. E il mondo è come tu te lo metti in testa. Un pesce sta nel mare, un altro nuoto in una vasca. Al pesce la vasca gli sembra il mondo. E il mare, e il mare, e il mare. Lo vede sullo sfondo. Grandissimo, grandissimo. Ti piace questa, Carmine? L'ho scelta io. Eccoci, infatti, dovete sapere tutta la Selecao musicale praticamente. e di Carmine mi mandano messaggi. Ciao Oliviuzza, ciao Olivietta. Dipende tanto dai tamponi. Bisogna comprare un altro microfono perché tende Carmine a strapparmelo di mano, ma non lo avrà così facilmente. I dati, ovviamente, quelli che si leggono, dipendono dai tamponi che vengono fatti. In Italia adesso si stanno facendo molti meno tamponi, a detta di Radio Popolare, e quindi, insomma, probabilmente anche questi sono... questa diminuzione della curva è dovuta a una diminuzione? No, perché su questo caso sono dati comunque percentuale. Ma chi lo sa? Intanto però speriamo, ecco, che ci sia una diminuzione davvero piano piano dei nuovi casi. Io so che sono tutti a regime i laboratori, soprattutto l'unico lì di Firenze, della provincia, che a Careggi, e vanno a manetta. Quindi con il resto d'Italia non ne ho idea. Si stava parlando prima dei poliziotti e si stava parlando prima di Liviet. Diciamo che queste due cose vanno un po' insieme, infatti ci è arrivato un contributo proprio su questo discorso del ricordarci, per favore, di non cadere nell'errore di stare a odiare il vicino o addirittura a denunciarlo, o a non avvicinarsi, a non parlare, a non guardarlo. Si assiste a delle scene veramente pesanti. Ricordiamoci che non tutti quelli che stanno a casa sono delle masse di pecore, e non tutti quelli che vogliono uscire, escono a fare una passeggiata, sono dei bastardi untori. Per favore, questo non ce lo scordiamo, come ha fatto notare Bruno, appunto nella pagina L'amore amorevole, sempre molto intelligente, pacato, ma preciso. E quindi mandiamo questo appello generosamente inviatoci da Liviet Liviuz Livia. Ciao, adesso lo mando, dov'è il play? È qui. Appello ai cittadini per evitare il contagio. Se vedete un venditore ambulante per strada, non chiamate il numero indicato dal governo per segnalarlo. Andate a comprargli qualcosa. Se notate che gli manca una maschera, non rimproveratelo. Vedete se potete procurargliene una. Non fate il poliziotto. Se sentite che il vostro vicino ha dei sintomi, non guardate fuori dalla finestra per vedere se lo beccate che esce a fare la spesa. Chiedeteli se ha bisogno di qualcosa, non fate il poliziotto. Se vedete gente per strada che cammina nel vostro quartiere, cercate di non sospettare il peggio, non chiamate il 112. Forse dovevano andare a lavorare. Non tutti hanno il privilegio di chiudersi in casa con il frigorifero pieno. Non fare il poliziotto. Se dovete uscire a fare la spesa, non guardate male chi avete intorno per paura di infettarvi. Salutate, fate conversazione. Non è il vostro nemico. Non fare il poliziotto. Se incontri qualcuno che vive per strada, non attraversare l'altro lato della strada per paura. Se potete, uscite di casa con del cibo, una maschera in più, un po' d'acqua in una tanica. Evitiamo la diffusione del polizia virus, un virus che non andrà più via. Ed ecco un altro, quindi si sommano i virus, il coronavirus, il paura virus, l'infodemia e il poliziotto virus, grandissima. Siamo a chiusura, tra 8 minuti più o meno comincia il tango, quindi scatenatevi, mettetevi le scarpe giuste o no, o state pure nudi. Io resto in pigiama, questo è il nuovo hashtag dell'anno, e vi lascio ovviamente con Carmine, come non si può lasciarvi con Carmine. A domani sempre alle 19 diretta speciale, e tutto il resto da retta ai Wombat, mi raccomando. Io ne approfitto ancora per ringraziare le bravissime Riciclette e Loop Luna per la loro musica, e vi salutiamo con un po' di leggerezza di questo cantautore torinese che si chiama Bianco. Le stelle sono di giorno. Le stelle di giorno. Ciao Alberto, ciao a tutti, grazie. Le stelle di giorno non dormono,